e si prepara di Stefano Silvano. Clare di Alessandria. Buongiorno. C'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria, anzi di antico. Si parla di novità, di cambiamento, ma è una cosa che ho sentito dire anche qualche tempo fa. Non so se vi ricordate i motti delle assemblee, sia territoriali, sia regionali che nazionali. Me ne leggo qualcuno. Rinnovare per non declinare, lavoriamo insieme per il cambiamento. Una CISL che cambia, guardando a ieri viviamo l'oggi, progettando il domani. Quindi un senso di novità, di cambiamento c'è e c'è sempre stato. Io, la mia segreteria ne è già un esempio. È stata completamente modificata, ci sono stati due inserimenti di due donne. Un mio carissimo collega, con affetto, ha chiesto perché due donne? Ora io non voglio scivolare sul tematiche di genere, ma vengo dal coordinamento, quindi il mio cuore un pochettino è rimasto lì. Nessuno si pone mai la domanda in una segreteria con due maschi perché due uomini. Comunque la novità da noi c'è stata, ma credetemi. La novità non è mai indolore, è stata faticosa, è stata combattuta, perché diciamocelo pure con sincerità, nel sindacato un po' di così intrighi, di manovre sotterranee ce ne sono e ce ne sono ancora. È per questo che mi piace molto il paragone della Furlan con la casa di vetro. Ricordiamoci però che i vetri vanno puliti, perché altrimenti poi si riappannano. Quindi, visto che li abbiamo puliti e siamo di vetro, andiamo avanti così. Io spero che... Allora, comunque, parlando di novità, mi sembra che la FNP sia un passo in avanti. Noi siamo stati i primi a mettere a posto, a fare gli accorpamenti, si è parlato molto di categorie. Io penso che noi siamo alla testa del gruppo. Peccato che abbiamo dietro il gruppo delle categorie che forse arranca un po' in salita oppure proprio non ha voglia di pedalare. Forse questo l'hanno già detto molti, però ricordiamoci che lì c'è scritto CISL e la C non vuol dire circolo, club, compagnia, vuol dire confederazione. Ricordiamoci che siamo una confederazione, una confederazione, quindi un'unione di federazioni. Noi abbiamo bisogno, anche se siamo nel rispetto dell'autonomia di tutti, mi raccomando, abbiamo bisogno delle altre categorie, sempre per arrivare a quel discorso che è fondamentale, che è quello del proselitismo. Non ci dimentichiamo che un passo fondamentale per il proselitismo è quello della continuità associativa, cosa che sembra un pochettino perdersi nel tempo. Le persone, quando sono nella categoria, magari sono iscritte, passano nel sindacato e non si iscrivono più. Cos'è che volevo dirvi ancora? Volevo parlare del proselitismo. Lo so, lo sanno tutti, e non voglio toccare l'argomento dei falsi iscritti, non iscritti, che il numero delle tessere sta diminuendo sempre di più. Ma poniamoci il problema anche che le pensioni stanno diminuendo. È vero che gli importi più alti, ma quelle che ci interessano, che sono quelle della vecchiaia, se vedete l'ultimo osservatorio INPS, è diminuito di circa 2 milioni. Peccato che invece nella controparte il numero dei decessi in un anno è aumentato del 9%. Quindi non vorrei che la fatica e i sacrifici che stiamo facendo a livello territoriale, perché in ogni modo tessere uguale fondi, si vanificasse del tempo perché non abbiamo i subentri di altri pensionati. Quindi io farei anche un gentile invito al nazionale, magari su una nuova modalità, una nuova modulazione della distribuzione delle risorse, in maniera che qualcosina di più arrivi ai territori, magari non tanto, ma un pezzettino che equilibri il fatto che i pensionati sono sempre di meno e i morti, ahimè, sempre di più. Vale per tutti, sì, certamente. Questo servirebbe per riuscire a ritornare sul territorio. Ho sentito parlare di un altro argomento fondamentale: il proselitismo ha ancora dei margini, è vero. Vediamo le statistiche, ci sono degli ampi margini per poter fare proselitismo. Ma il proselitismo com'è che lo possiamo fare? Parlo di uno stralcio di quelli che sono gli spunti dati dal nazionale. La FNP, in principis, Greenpeace deve riappropriarsi di quelle che sono le problematiche del territorio, di comprendere quelle che sono le difficoltà dei territori, riconoscere e inventare un nuovo welfare, perché la cosa che serve alla nostra utenza è l'attenzione. Ben vengano i servizi, e non mi voglio diluncare sulle disfunzioni dei servizi, ma ricordiamoci che noi non siamo soltanto degli impiegati al servizio del capo dell'INAS, ricordiamoci che siamo un sindacato, e il valore del sindacato è quello di porre l'attenzione alla persona. Sul nostro territorio abbiamo fatto una ricerca su un problema che è fondamentale, che è quello della salute. Questo ci ha dato la possibilità non soltanto di fare luce su quelle che sono le problematiche dell'argomento salute, liste d'attesa, costi dei ticket, mancanza di risorse economiche, ma soprattutto ci ha dato la possibilità di avvicinare più di 200 persone. Ricordiamoci che le persone si iscrivono anche perché vengono ascoltate, anche perché noi gli diamo la nostra attenzione. Ma qui si è parlato di rinascimento e quindi di una rivoluzione. Sono del tempo, vero? Sono del tempo. Avevo già quasi finito. Avevo in fretta. Si è parlato di rivoluzione e mi consola molto e mi riempie anche di soddisfazione e d'orgoglio un articolo che è comparso poco tempo fa sul Corriere della Sera, dove si parla di un sindacato che ritorna in auge. Un sindacato che sta prendendo piede anche per la debolezza di quello che sono i politici e soprattutto le imprese. Non so chi di voi l'ha letto, ma si parla di una rivalutazione del valore sindacale e si fa riferimento non soltanto alle contrattazioni, alle nomine, e qui parlo dei postali, Gigi, parlo dei postali. Ma anche di un incontro, di una proposta fatta da Poletti proprio per la strategia della governance dell'INPS. Ricordatevi che il CIV non ha approvato il bilancio INPS 2017 e questo per l'intervento dei sindacati. Quindi vuol dire che davvero una crescita è in atto, una rivoluzione è in atto, ma vorrei terminare ricordandovi, e qui non vorrei passare per 68, ma credo che un po' tutti noi l'abbiamo vissuta, le parole di Che Guevara: la vera rivoluzione deve iniziare dentro di noi. Grazie.